Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ed è anche immondo e vomitevole che ci sia una cultura strisciante, non imperante, per fortuna condivisa da pochi, non maggioritaria, secondo la quale questo è il virus dei vecchi e se la vedano loro. Perché è vergognosa sta posizione, ve l'ho già detto altre volte. E non può essere una giustificazione per avere l'alibi per andare in giro a creare assembramenti. Come non essere d'accordo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con il presidente della Regione Veneto Zaia a proposito appunto di coloro che ritengono che il coronavirus, qualcuno lo scrive, ancora una minoranza finalmente molto molto ristretta, e almeno qui a Effetto Notte, perché in genere tutte ascoltatrici e ascoltatori civili, che coloro che invece attribuiscono il coronavirus soltanto ai vecchi, o perché dicono lo prendono soltanto loro o ne muoiono soltanto loro. Anche fosse vero, primo appunto è spregevole pensarlo, che le loro vite e le vite dei, quindi dei nostri cari affetti possano valere di meno, non contino proprio. Secondo, perché è proprio falso e perché provoca appunto le follie degli assembramenti che abbiamo visto appunto questo fine settimana in alcuni centri storici, nei negozi, appunto come denunciava il presidente del Veneto Zaia. E a questo proposito, in queste ore il Comitato Tecnico Scientifico insieme al governo stanno valutando se appunto imporre ulteriori restrizioni nelle feste natalizie. Sapete che invece prima c'era il DPCM del 3 dicembre che era molto rigoroso da questo punto di vista, poi con le varie pressioni da parte dell'opposizione ma anche da parte di una diciamo fetta della maggioranza di governo, queste pressioni hanno spinto Conte, i ministri, a dire vabbè, adesso vediamo se possiamo valutare degli allentamenti. Invece adesso si torna di nuovo a una prospettiva insomma di restrizioni più rigorose. Ne parleremo nel corso di questa puntata da un punto di vista sanitario con il virologo dell'Università di Milano Pregliasco, e poi da un punto di vista politico. Ci collegheremo anche con gli Stati Uniti, perché oggi dovrebbe essere iniziata la campagna vaccinale di massa, e poi anche perché New York si sta preparando a un totale lockdown. 349-238-6666, ve lo ricordo, è sempre il numero per i vostri WhatsApp, i vostri commenti attraverso WhatsApp, 349-238-6666, altrimenti c'è sempre per voi comodamente giorno e notte la pagina Facebook di Effetto Notte. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 12.030 i positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 491 e quindi è stata superata la soglia dei 65.000. Festività natalizie, CTS e governo valutano delle misure più restrittive, si va forse verso il lockdown nazionale. E nel mondo si prepara la chiusura a New York, lockdown anche per la Germania dal 16 dicembre al 10 gennaio, e l'Olanda lo prevede per 5 settimane. Vaccini: negli Stati Uniti parte la campagna vaccinale di massa. Politica italiana, verifica di governo, il confronto tra le forze di maggioranza, ma sul recovery fund serve una cabina di regia, insiste Conte. Benzinai, confermato lo sciopero, stop dalle 19 di oggi fino a mercoledì. Qualità della vita, vince Bologna, Milano indietreggia, non recuperano le città del sud. Calcio, sorteggio impegnativo negli ottavi di Champions League per le squadre italiane. Partiamo quindi come sempre dai dati aggiornati sull'epidemia di coronavirus in Italia. Lo avete sentito, sono 12.030 i positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 491, quindi è stata superata in Italia dall'inizio dell'epidemia la quota dei 65.000 morti. Tamponi in calo e tasso di positività all'11,6%. Resta stabile la percentuale positivi tamponi all'11,6% dopo la risalita di domenica scorsa, e la curva dei contagi scende ai livelli di metà ottobre, all'inizio della seconda ondata della pandemia. Sono 12.030 i nuovi casi di Covid in Italia, con oltre 103.500 tamponi, 50.000 in meno. Superano i 65.000 i decessi da Covid, con 491 vittime nelle ultime 24 ore. E in vista della campagna vaccinale anti-Covid, che dovrebbe partire a gennaio gennaio con i sanitari e gli over 80 per poi proseguire secondo fasce di priorità, Giovanni Rezza, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, puntualizza: non si può scatenare una guerra tra soggetti fragili con patologie pregresse. Stiamo valutando la possibilità di avere un'anagrafe delle persone appartenenti a categorie a rischio. E sempre sul fronte della prevenzione, le norme anticontagio sembrano funzionare anche contro l'influenza. Almeno per il momento, infatti, il temuto incrocio con l'epidemia di Covid-19 non si è verificato. Lo testimoniano sia i dati provenienti dagli Stati Uniti che quelli europei, che parlano di una stagione influenzale ancora non iniziata, con livelli atipicamente bassi. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo gli assembramenti del fine settimana si discute appunto sulle misure da adottare in vista delle feste natalizie. Sull'esempio della Germania, il governo valuta un nuovo lockdown nazionale per il periodo di Natale e Capodanno. Preoccupato dal rischio di una terza ondata di contagi a gennaio, il Comitato Tecnico Scientifico ha chiesto al Premier Conte e ai capi delegazione della maggioranza di consolidare ed eventualmente estendere e rafforzare le misure anti-Covid. Ad alimentare i timori degli esperti e dell'ala rigorista del governo sono anche gli assembramenti nelle vie dello shopping, visti lo scorso fine settimana in molte città. Una decisione dell'esecutivo è attesa nelle prossime ore, forse con un nuovo DPCM. Nei giorni festivi e prefestivi tutta Italia potrebbe diventare zona arancione o rossa. Quanto al blocco degli spostamenti già previsto per le festività, nella maggioranza resta invece aperto il confronto su eventuali deroghe per i comuni più piccoli. Il TAR del Lazio nel frattempo ha confermato il sì alla chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, decisa con il DPCM dello scorso 3 dicembre. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E comunque ne parleremo dal punto di vista sanitario, vi dicevo, dal punto di vista politico nel corso di questa puntata. Per quanto riguarda invece l'Europa, il mondo, i timori del nostro paese, le decisioni che verranno adottate sembrano condivise in Europa e non solo. Londra torna in lockdown, presto potrebbe tornarci anche New York. Londra torna in zona rossa. Da mercoledì la capitale britannica sarà di nuovo in quasi lockdown. Il confinamento nazionale di un mese, archiviato il 2 dicembre, non è bastato a contrastare la diffusione del Covid. Londra sta infatti registrando una ripresa dei contagi e così il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha annunciato ai comuni la nuova stretta. Mercoledì Londra passerà dall'allerta arancione a quella rossa con una nuova chiusura di ristoranti, pub e di alcuni negozi. Limitazioni che dureranno per ora fino al 23 dicembre, quando in tutto il regno, Londra compresa, scatterà un alleggerimento di 5 giorni delle restrizioni in occasione del Natale. Sempre mercoledì la Germania entrerà in lockdown. La cancelliera Angela Merkel ha infatti scelto la linea dura. Fino al 10 gennaio in tutto il paese ci saranno negozi e scuole chiuse, divieto di assembramenti, di consumo di alcol per strada e fuochi d'artificio di Capodanno vietati. Per la chiusura anticipata delle scuole arriveranno comunque misure di sostegno per le famiglie, come ferie aggiuntive retribuite. Negli Stati Uniti intanto è partita la campagna di vaccinazione contro il Covid. Il primo vaccino è stato somministrato a New York, poco dopo le 9 del mattino, al Long Island Jewish Medical Center nel Queens, a un'infermiera afroamericana. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ci collegheremo direttamente con la Grande Mela. Negli Stati Uniti, a proposito appunto di Grande Mela, l'avete sentito, oggi è iniziata la campagna di vaccinazione. In Europa si sta valutando un V-Day dopo la Befana. In Italia l'inizio della vaccinazione è fissata per il 15 gennaio. Dopo la fase iniziale, dedicata al personale sociosanitario e gli anziani nell'RS, partirà la campagna di massa, simboleggiata da una primula, una campagna ideata dall'architetto Stefano Boeri. Sentiamolo oggi al microfono di Alessio Maurizio e Effetto Giorno. È nata rispondendo a una richiesta del commissario straordinario, fare tempi molto rapidi, una riflessione propositiva sul modo migliore per comunicare a tutti gli italiani, di qualsiasi età, di qualsiasi origine, che il vaccino è una cosa importante, che è un atto di cura per se stessi, di amore verso gli altri, di responsabilità civile. Il fiore, è un simbolo, e soprattutto la primula è un simbolo di rinascita. La primula è il primo fiore dopo un lungo, lunghissimo inverno come questo in cui siamo immersi. Quindi ci è sembrato, come dire, un simbolo adatto a accompagnare gli italiani a fare un passo importante, senza essere coercitivo, ma senza anche essere una sorta di liberi tutti, perché non sarà così. Vaccinarsi è un primo passo. Più ci vaccineremo, più riusciremo ad essere in futuro sicuri e tranquilli. La politica italiana, nel frattempo, sul fronte politico, il presidente del Consiglio Conte ha aperto la verifica e dunque il confronto con le forze di maggioranza. Ci sarà spazio per approfondire questo tema tra poco. Siamo alla cronaca. La Procura di Roma ha chiesto 4 ergastoli nei confronti delle persone accusate della morte di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina, avvenuta la morte il 19 ottobre del 2018 a Roma. La richiesta nei confronti dei 4 cittadini africani è stata formulata davanti alla giudice ai giudici della terza corte di assise. Nei loro confronti le accuse vanno, a seconda delle posizioni, dall'omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. È confermato lo sciopero dei benzinai, è cominciato oggi alle ore 19 sulla rete stradale ordinaria e dalle 22 su quella autostradale. Si protrarrà fino al primo pomeriggio di mercoledì 16 dicembre, fino alle 15 sulla rete ordinaria e alle 14 in autostrada. I gestori di rifornimento carburanti protestano contro l'esclusione dalle categorie che possono beneficiare del decreto ristori. Un problema di autenticazione e servizi ha causato il down oggi di Google, lo spiega la società in una nota ufficiale. Oggi alle 12.47 ora italiana, scrive, abbiamo riscontrato un'interruzione del sistema di autenticazione durata circa 45 minuti dovuta a un problema interno. I servizi che necessitano che gli utenti siano loggati hanno riscontrato un'elevata percentuale di errore. Il problema è stato risolto e tutti i servizi ripristinati. Ci scusiamo, dicono, da Google con tutti gli utenti impattati, condurremo un approfondito esame per garantire che non possa ripetersi in futuro. Parliamo della qualità della vita. Ogni anno l'appuntamento con la classifica relativa, un anno particolare riflesso anche nei risultati. L'indagine Sole 24 Ore sulla qualità della vita misura quest'anno anche l'impatto del Covid e la capacità dei territori di reagire. Bologna balza al primo posto, mentre Milano e le altre province lombarde perdono posizioni. Perdono punti in generale le grandi città e le aree turistiche, guadagnano posizioni l'Emilia-Romagna, l'Arco Alpino e la Liguria. Per il futuro sembrano decisivi, anche nel sondaggio noto per il Sole, la capacità dei territori di fornire servizi sanitari di base efficienti, servizi digitali, trasporti sostenibili, qualità della vita. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, poco fa al convegno web del Sole 24 Ore. Io credo che sia importante il metodo per il futuro. Dobbiamo ragionare sullo sviluppo sostenibile, ambientale, sociale ed economico, e continuare a investire ancora di più nel trasporto pubblico, sulle aree verdi, a promuovere uno sviluppo che faccia coesione sociale oltre che benessere, gli investimenti e l'innovazione digitale. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di calcio, sorteggio impegnativo negli ottavi di Champions League maschile per le squadre italiane che non figuravano come teste di serie. Ci saranno però più dettagli nel corso di questa puntata. Per chiudere invece l'addio a John le Carré, un maestro dei romanzi di spionaggio e un grande della letteratura. Se si dice spy story, il pensiero va subito a John le Carré, maestro della letteratura di spionaggio. Il successo a livello mondiale era arrivato nel 64 con La spia che venne dal freddo, a cui seguirono La talpa, Tutti gli uomini di Smiley, La casa Russia, giusto per citarne alcuni. Romanzi dai quali spesso furono tratti film o serie TV. John le Carré, al secolo David Cornwell, era stato funzionario del Ministero degli Esteri britannico e anche agente segreto, esperienza dalla quale aveva tratto ispirazione per il suo personaggio più famoso, George Smiley, considerato un anti-James Bond. Se negli anni 60 e 70 era stato il narratore della Guerra Fredda, dopo il crollo del muro di Berlino, Le Carré si è concentrato su mafia, terrorismo, traffico di armi e di droga, con opere come Il sarto di Panama. E sempre seguendo l'attualità, nel 2019, con La spia che corre sul campo, ha raccontato la Gran Bretagna di Brexit e l'America di Trump. Stephen King lo ha definito gigante della letteratura. Per Margaret Atwood, i suoi romanzi sono la chiave di lettura per comprendere la seconda parte del XX secolo. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è difficile comprendere la natura umana e soprattutto di certi uomini. Arriva una notizia di cronaca nerissima. In base alla prima ispezione effettuata questa sera dal medico legale, i resti umani rinvenuti nella valigia trovata a Firenze appartengono a una donna. Nei giorni scorsi c'era un'altra valigia sempre a Firenze dove c'erano resti di un uomo. E quanto si spiega dai carabinieri, intanto domani mattina verso le 9 riprenderanno le ricerche nello stesso campo, impegnate anche i cani per la ricerca di cadaveri in arrivo dal nucleo cinofili di Bologna. Quindi nell'arco di pochissimi giorni due valigie con resti umani, quelli della scorsa settimana erano di un uomo, questi di una donna. Per chiudere questa prima parte della puntata, il messaggio di un ascoltatore che dice: pensare a proposito degli assembramenti che basterebbe dare le multe previste. Effettivamente, però diciamo che per quanto riguarda gli assembramenti per lo shopping in questi giorni, era difficile dire non andate se sono stati aperti i negozi. Certo, a questo punto sarebbe una questione di intelligenza individuale dire: beh, se vedo tutto quell'assembramento, quella coda, vabbè, giro i tacchi, vado da un'altra parte, ci vengo un'altra volta. Capisco che non tutti abbiamo tutti poco tempo, eccetera, però evitiamo certe situazioni, no? Qualche regalo si trova lo stesso, se lo vogliamo fare. Evitiamo di fare il liberi tutti, perché altrimenti davvero non se ne esce più. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti, come sempre, lo sapete, ricchissimi di notizie, aggiornamenti in diretta della sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, e adesso invece l'approfondimento di alcune notizie insieme agli ospiti, e poi sempre la possibilità per voi di commentare le notizie principali attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349 238 6666. Dice un ascoltatore con 1000 punti esclamativi finali: ma se non ci sono nemmeno i vaccini antinfluenzali, perché si diceva in un servizio che avete sentito nella prima parte che effettivamente per il momento, per fortuna, sembrerebbe che almeno la classica ondata di influenza, quella diciamo tra virgolette normale, che arriva in questo periodo, ancora non è iniziata, non è scoppiata, anzi sembra che il livello per il momento sia molto basso. Poi tra poco magari ci faremo spiegare anche questo dall'ospite che sta per intervenire. Dobbiamo essere tutti alla stessa parte, quindi se ci saranno restrizioni ulteriori saranno per le festività e saranno legate ad un periodo per il quale gli assembramenti familiari dobbiamo cercare di limitarli o di eliminarli completamente. Questo è il concetto espresso oggi dal ministro degli affari regionali Francesco Boccia in una trasmissione RAI a proposito del fatto che appunto Comitato Tecnico Scientifico e Governo, dopo gli assembramenti per lo shopping nelle vie dei negozi di questo fine settimana, stanno valutando appunto CTS e Governo delle restrizioni per le festività natalizie. In realtà abbiamo parlato molto spesso qui delle regole del DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre, molto rigoroso, però è vero che nel corso di questi giorni, con le molte pressioni arrivate dalle opposizioni al governo, ma anche all'interno della stessa maggioranza, affinché Conte facesse qualche passo indietro e allentasse un po' le restrizioni nel periodo natalizio, e quindi anche per esempio delle deroghe per spostarsi da un piccolo comune all'altro e anche magari un pochino più di mobilità, adesso invece con i dati, per esempio quelli di oggi che avevo ricordato all'inizio, no? 12.030 nuovi casi di positività e sempre un numero alto di vittime, 491, adesso di nuovo spunta la linea rigorista e appunto stanno valutando CTS e Governo di fare una specie di lockdown nazionale per i giorni clou delle festività natalizie. Ma insomma, a questo punto diciamo che si crea effettivamente un pochino di confusione nelle persone, cioè si aprono i negozi, quasi tutte le regioni diventano, quindi tutta l'Italia zona gialla tranne poche regioni, e allora si dice quindi ci si può muovere, si può andare verso i negozi, sì, però dicevo sempre un po' di intelligenza individuale. Che cosa è giusto fare? Qual è la situazione? Spero ce lo dica il nostro faro di questi mesi, tra i principali virologi, il professor Fabrizio Pregliasco. Professore, buonasera, bentornato. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Quindi, secondo lei, a questo punto che cosa è giusto fare? Un passo indietro, un passo avanti? Qualcuno dice anche tra gli esperti che questo stop and go va bene perché così si vede l'effetto di misure, di piccole gocce, invece di aprire tutto le dighe, il mare, eccetera. Lei che cosa ne pensa? Ma la situazione attuale ormai ha fatto sì che si sia perso il controllo della malattia. Questa malattia così perfida che determina casi soprattutto banali si è, come dire, facilmente diffusa in tutta Italia e in tutto il mondo, no? Perché la gran parte dei casi è banale, è la sua forza questa malattia. Purtroppo poi quando inciampa in un soggetto fragile fa gli effetti che poi arrivano a quei 500 morti al giorno, che ormai ci fanno anche un effetto molto relativo rispetto al passato, ma sono una cosa devastante. Certo. Quindi in questo momento noi riusciamo solo a mitigare la diffusione, quindi a regolare la velocità per far sì che le terapie intensive e i reparti di medicina siano non affollati come nel momento dell'incremento esponenziale. Le misure ad oggi hanno stabilizzato il numero di casi giornalieri, vediamo che variano dai 19-15 mila, a seconda anche del numero di tamponi che eseguiamo, quindi di sicuro ormai abbiamo perso il tracciamento, che è l'elemento che ci servirebbe per riuscire a riprendere una convivenza civile, ma ci vorrebbero 5.000, massimo 10.000 casi al giorno per recuperare, no, quella possibilità del contact tracing, come si dice, individuare i casi, i contatti stretti, eccetera, che ora è di fatto impossibile. Quindi Angela Merkel ci ha un po' spiazzato, perché con una situazione comparabile, barra forse migliore, però tutto questo non è facile valutarlo dal punto di vista, diciamo, infatti proprio questo, professore, lei mi ha anticipato, le volevo chiedere questo confronto con la Germania. Abbiamo visto la cancelliera Angela Merkel nei giorni scorsi con la voce tremante che diceva: io non posso, non si può accettare il prezzo di 500-600 morti al giorno, qui dobbiamo assolutamente prendere delle decisioni. Ha quasi supplicato il popolo tedesco affinché sia responsabile e si attenga, insomma, alle regole ancora più restrittive, perché mentre sinora la Germania aveva, diciamo, assunto un semi-lockdown, lockdown leggero, adesso invece hanno deciso che proprio dal 16 dicembre, quindi tra due giorni, fino al 10 gennaio, ci sarà una specie di, insomma, quasi un lockdown tout court. Ma di fatto si è visto che non era sufficiente, un po', perché purtroppo oggi non esiste un, come dire, un manuale di gestione dell'emergenza, si va per tentativi ed errori. Nessuna nazione, anche la Svezia, che sembrava aver fatto la cosa migliore, non facciamo niente o facciamo poco, sono in crisi nelle terapie intensive. Quindi davvero la situazione vede difficoltà dal punto di vista, diciamo, tecnico, se non il principio è che meno contatti abbiamo ognuno di noi ogni giorno e meglio è. È chiaro che in questo momento chi si è spostato e è andato in centro magari a vedere quanta gente c'era per poi scoprire che erano in tanti, è come dire un qualcosa che va oltre al buon senso, però è legale, perché ad oggi con, certo, le disposizioni del DPCM. Però non dobbiamo fare dal nostro punto di vista i bambini, no, che arrivano al limite di quello che i genitori dicono, arriva fino lì ma non andare oltre, noi dovremmo stare indietro. Questo, diciamo, è un po' una colpa del cittadino, però se legalmente può farlo, è chiaro che a sto punto ci vuole, mi sa che l'Italia ha detto una bella cosa, diceva, finisce che gli italiani si meritano anche un DPCM per dire che non bisogna buttare la carta in terra, no? Che è, come dire, un elemento di buon senso e di convivenza, certo, civile. Ed è un minimo di civiltà. Per esempio anche Donato da Modena fa questa domanda: ma come si può fare a non accalcarci nei negozi, si sono stati chiusi fino a ieri, e poi chi decide chi può e chi non può fare acquisti, chi arriva prima? Ma no, appunto, ognuno decida con un pochino di coscienza, di amor proprio prima di tutto, e anche, esatto, nei confronti degli altri, no? Nei confronti della comunità. È chiaro che però non sappiamo quanta gente c'è in questo momento o ci sarà domani a mezzogiorno in Piazza Duomo a Milano o da un altro posto, e quindi venire o aspettare. Cioè, il governo di questa cosa ovviamente non è facile, quindi credo che al di là di un aspetto, diciamo, che ci stava di promuovere una facilitazione durante le feste per far sì che questa maratona che stiamo correndo sia in qualche modo più sopportabile, finirà che creerà un po' di problemi, visto che appunto questo comportamento fa dire che bisogna chiudere ancora un po' i rubinetti dei contatti. Quindi, professore, rispetto alla Germania di cui faceva l'esempio, ricordava, no, appunto la Germania adesso lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio, poi Londra torna rossa, anche Londra per diversi giorni, e così l'Olanda per 5 settimane. Allora la domanda è, appunto, esagerata la Germania oppure siamo noi che tentenniamo troppo? Però le diceva, non esiste il manuale del giovane o della giovane gestore del coronavirus, pandemia, no? Esatto, quindi purtroppo è chiaro che questa modalità, che vai un giorno dici di sì, un giorno dici di no, crea dei disastri che fanno incavolare tutta una serie di persone che lavorano e che forse speravano di. È chiaro che però qui il driver è la salute, perché se non c'è la salute anche l'economia va un po' a farsi benedire. Poi vedevo Londra, anche ognuno dota un po', diciamo, a seconda di quello che gli esperti del paese ritengono. Londra da mercoledì, dicevo, torna in quasi lockdown, ci sono delle limitazioni che dureranno per ora fino al 23 dicembre, poi scatterà un alleggerimento di 5 giorni delle restrizioni proprio in occasione del Natale, cioè il contrario di quanto probabilmente si farà in Italia, no? Quindi evidentemente si va a tentoni e ognuno vuole sperimentare un proprio percorso a seconda delle esigenze, a seconda appunto di un equilibrio con l'economia, con il mantenimento di una pace sociale, che ovviamente non è facile in questi contesti, perché chi è garantito è tranquillo e magari sta a casa è anche tranquillo di lavorare un pochino meno e avere comunque garantito, ma chi è un partita IVA ovviamente soffre sempre più. Ora farei sentire un passaggio del Ministro della Salute Speranza poco fa al TG3, che ribadisce, appunto sappiamo che Speranza è per la linea rigorista insieme al Ministro Boccia, ribadisce che le restrizioni possono aiutarci in attesa di questo benedetto vaccino. Ma il CTS proprio in questi minuti si sta riunendo su richiesta del Governo per poter valutare la situazione epidemiologica ed eventuali nuove misure. La mia opinione è chiara, queste misure possono essere utili e ci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze di Natale a evitare che arrivi una terza ondata e a evitare una nuova recrudescenza, per cui pagheremo un prezzo ancora alto sia in termini di fermi che in termini di pressione sulle strutture sanitarie. Quindi vaccino, in attesa del vaccino bisogna appunto continuare in questo senso, professor Pregliasco, vaccino che in Italia arriva nella seconda metà di gennaio, no? Se dobbiamo ricordarci, ricapitolare sì, un po' il percorso. Ci vorrà un po' perché bisogna raggiungere un elevato grado di protezione, 60-70% di persone vaccinate, qui giocherà la disponibilità di vaccini che speriamo ci siano, non succeda come l'influenza dove per una carenza mondiale di vaccini c'è stato un problema di disponibilità e si stanno vaccinando ancora le persone adesso, ma anche di voglia degli italiani di vaccinarsi, perché l'obiettivo si raggiunge con immunità di gregge che è calcolata nel 60-70% almeno di immunizzati e un effetto positivo si vedrà nel 20-30%, quindi non sarà un risultato immediato ma che si vedrà poi via via crescere nei momenti della sperabile adesione della vaccinazione. Professor Pregliasco, poi la lascio che so che è molto indaffarato come sempre, ma le volevo sottoporre questa proposta della Repubblica di San Marino che dice stiamo valutando se prendere questa a breve una decisione che sarebbe questa: chi non vuole il vaccino si paga poi le cure. Lei che ne pensa? Ma insomma è un aspetto estremo, ma ci sta, perché la vaccinazione è un elemento che costa poco, che è sicuro, che è efficace e che riduce le spese sanitarie della struttura, le strutture che devono poi curare le persone, e soprattutto rilancia l'economia. Quindi ci sta che sia un elemento di dissuasione un po' estremo, ma sicuramente che ha un senso rispetto alla utilità della vaccinazione e dell'importanza di sanità pubblica. Grazie professor Pregliasco, come sempre. Buona continuazione, buona serata e buon lavoro. Ci fermiamo per una breve pausa di riflessione e di respiro naturalmente. 349-238-6666, sempre il numero per i vostri WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, eccomi qui ancora con voi naturalmente a raccontarvi durante tutta quest'ora i fatti principali della giornata e ad affrontarli in modo più approfondito, alcune di queste notizie, con gli ospiti. Abbiamo parlato lungamente della situazione attuale in Italia data dal coronavirus con il professor Fabrizio Pregliasco e anche del paragone con la Germania e con gli altri paesi europei, diversi altri paesi europei, l'Olanda, la Gran Bretagna, che stanno prendendo delle misure molto restrittive, ognuno insomma con un punto di vista e un piano adeguato, comunque deciso, personalizzato diciamo così sulla propria nazione e popolazione, però diciamo che insomma nessuno se la passa benissimo e siamo in attesa di sentire, di vedere che cosa il Comitato Tecnico Scientifico, che si sta riunendo in queste ore, proporrà al governo per quanto riguarda delle possibili misure ancora più restrittive per i giorni delle festività natalizie, visti in particolare gli assembramenti di questo fine settimana molto preoccupanti. Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! E io devo dire che che sono con Magda di Bianco, Rosso e Verdone, cara Barbara Fiammeri. Buonasera, cara Barbara. Buonasera a tutti. Perché tira e molla sulla tenuta del governo, tira e molla sulle misure restrittive, no allentiamo, no restringiamo, no allentiamo, no restringiamo. A questo punto veramente si crea uno stato confusionale generale che non si capisce più niente. Io comunque capisco ovviamente la difficoltà del momento, sia del governo, sia dal punto di vista politico, sia nel gestire l'epidemia, visto che anche, diciamo, gli altri paesi, come si diceva, sono in difficoltà. Gli Stati Uniti, si parla, tra poco ci collegheremo con gli Stati Uniti, con New York, che probabilmente sarà di nuovo in un periodo di lockdown. Ma direi di partire prima di tutto, cara Barbara, dalla tenuta della maggioranza, perché Conte sta oggi ha tenuto dei colloqui, come vogliamo chiamare, consultazioni, insomma una verifica di maggioranza con le due maggiori forze del governo, che sono il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Domani vedrà Italia Viva di Renzi e Liberi e Uguali. Diciamo che il tutto, questa necessità di una verifica, è scattata da tutte le polemiche sulla cabina di regia che Conte ha immaginato per gestire i fondi europei che arriveranno per aiutare l'Italia, no? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana. È una cabina di regia formata da lui, una specie di piramide. Lui, poi sotto ci sarebbero i ministri dell'economia, Gualtieri, dello sviluppo economico, Patuanelli, e degli affari europei, Amendola, e poi sotto sei super manager e poi diversi, forse addirittura 300 tecnici, del Renzi soprattutto, no? All'interno della maggioranza, che ha criticato fortemente il Presidente del Consiglio Conte e che ha detto se non leva questa cabina di regia che ha proposto, insomma, se dovesse davvero realizzarsi, allora noi non voteremo la legge di bilancio. Quindi sta facendo un po' questo giro di consultazioni, con l'esito di che tipo per ora, cara Barbara? Ma diciamo che il piatto forte viene domani, perché è domani che incontra Renzi, quindi il momento colù sarà appunto quando ci sarà domani pomeriggio l'incontro col leader di Italia Viva, e per capire quanto Renzi voglia poi affondare effettivamente, no, il coltello, oppure se invece sia disponibile a una trattativa. È evidente che nella cabina di regia, così come tu l'hai ricordata, non c'è nessuna presenza renziana, cioè non ci sono ministri renziani, quindi il partito di Matteo Renzi non è rappresentato. Teniamo anche presente che stiamo parlando di soldi che dovrebbero arrivare da parte dell'Europa. Io uso sempre il condizionale, non tanto perché, come qualcuno a volte sostiene, perché l'Europa non, in realtà non ci aiuta. No, perché tu dici finché non vedo non credo? No, era in questo senso. Non era quel senso. Qual era il senso? No, era nel senso che l'Europa, per darci questi soldi, vuole sapere su che cosa li mettiamo. Cioè, ma non a noi, in generale, cioè, possono essere tedeschi, olandesi, francesi, spagnoli, cioè si delineano un progetto: voglio creare quell'autostrada, voglio fare quell'ospedale, voglio fare, e sulla base di questo ti danno i soldi fino alla cifra che sappiamo dei famosi 209 miliardi, una parte a fondo perduto e una parte invece come prestito. Però appunto su dei progetti, se noi continuiamo a litigare su chi comanda e non presentiamo i progetti, i soldi non ci arrivano proprio. Proprio, ecco. Il problema l'abbiamo risolto. Allora dice Barbara, però ti voglio far sentire. Allora, diciamo che Marcucci, capogruppo del PD, ha negato che ci sia una volontà di rimpasto, quindi di far rigirare un po' le poltrone, di mettere qualcun altro al posto di qualcuno, eccetera, eccetera. Lo stesso il capo politico del Movimento 5 Stelle ha detto assolutamente, noi non ci pensiamo minimamente, ha detto Crimi, a un rimpasto. Ma anche da Italia Viva, diciamo, ha dato un'anticipazione Maria Elena Boschi oggi al TG4, anzi poco fa, e direi di farla sentire. Sentiamo. Di vero c'è semplicemente che la nostra educazione nei toni, la nostra pacatezza sui toni non vuol dire arrendevolezza, cioè noi siamo convinti che i problemi che stiamo ponendo sono problemi che condividono la maggior parte degli italiani. I dubbi, diciamo, sulla task force, su questo progetto di utilizzo delle risorse europee, non sono problemi che pone Italia Viva perché ha bisogno di uno strapuntino o per porre temi sul rimpasto di governo, che per noi non è assolutamente all'ordine del giorno, ma parlare di problemi concreti degli italiani. Allora, così ha detto, poi sentiremo domani l'esito dei colloqui di Conte con Italia Viva, però sentiamo Conte che ha voluto ancora rassicurare su questa task force, dicendo che poi non è che esautora il Parlamento o il Consiglio dei Ministri, così ha detto Conte, sentiamo. Si tratta senz'altro di un piano molto ambizioso, articolato, che oltre ad un'attenta pianificazione richiede anche un'attuazione più efficace possibile. Lo sapete, il governo è al lavoro per definire compiutamente la struttura che sarà responsabile dell'attuazione, del monitoraggio del piano e che potrà avvalersi anche di un quadro normativo ad hoc per assicurare il pieno assorbimento delle risorse stanziate e la messa a terra di tutta la progettualità nei tempi più rapidi. Questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata, sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali. Insomma, Conte continua a rassicurare, però evidentemente qualche dubbio, qualche timore c'è non solo da parte di Italia Viva, ma penso che anche qualcuno del PD, no, non sia proprio contento di questa cosiddetta task force o cabina di regia. Il rischio, come ha detto qualcuno, è che produciamo strutture su strutture e sovrastrutture, nel senso che poi se i ministri continuano a fare i ministri, i direttori generali dei ministeri continuano a fare i direttori generali, ma allora questi manager che cosa fanno? Cioè il rischio è quello che abbiamo già visto di task force che poi servono a poco, pensiamo alla task force quella presieduta da Colao che doveva servire, no? Proprio, no? A delineare quali erano lo schema che ha portato poi agli stati generali e solo all'ultimo momento tra l'altro Colao andò agli stati generali. Quindi ci fu proprio un distacco tra quello che era la posizione di Palazzo Chigi e poi Colao che dall'altra parte insieme a una serie di tecnici valutavano le strategie per il futuro dell'Italia. Allora, delle due l'una, o questa cabina, cioè o questo nucleo di esperti serve e quindi poi in qualche modo la politica si deve adeguare, oppure se la politica vuole avere cioè vuole decidere la politica, cosa che per esempio dal mio punto di vista è giusto, perché la politica, i politici sono eletti dagli italiani e comunque non è soltanto la competenza che conta anche che cosa, come io vedo il futuro del paese, no? E quindi è giusto che la politica decida. Poi se la politica non è capace di tradurre in pratica perché c'è un'amministrazione inefficiente oppure non adatta ai tempi e alla necessità di rispondere in modo veloce alle richieste che ci vengono presentate, beh, questo allora è un altro tema che secondo me non si risolve però con una sovrastruttura qual è quella dei super manager, perché poi alla fine l'imbuto si crea lo stesso, cioè non è che il super manager fa le cose da solo, comunque ha bisogno dell'amministrazione. Di confrontarsi eccetera eccetera, e poi certo tutto il percorso burocratico. Scrive questa ascoltatrice, una cabina di regia talebana ovvero di soli maschi è improponibile, poi bisognerà vedere, probabilmente nomi di donne per il momento non se ne sono sentiti, vedremo, speriamo se ci deve essere una cabina di regia che siano rappresentati tutti e due i generi naturalmente, visto che la politica poco rappresenta. E io ti farei sentire dall'opposizione Salvini, che ha detto quindi diciamo c'è questo giro di consultazioni per rinserrare i ranghi, come ha detto Conte, per quanto riguarda soprattutto la maggioranza di governo, però le opposizioni a questo punto hanno chiuso, ritengono che non ci sia una possibilità di confronto, che Conte non le voglia ascoltare. Sentiamo Salvini che dice la maggioranza litiga e noi facciamo le proposte. In una giornata in cui l'ex maggioranza di governo passa il tempo a litigare, a parlare di verifiche, rimpasti, crisi e poltrone, noi offriamo all'Italia le proposte concrete del centrodestra unito per migliorare la manovra economica attualmente in discussione. Quindi Salvini dice noi siamo pronti a fare le proposte, e Meloni di Fratelli d'Italia anche lei dice noi non governiamo con gli altri, a questo punto chiudiamo. Ne stiamo parlando, ne parleremo anche nei prossimi minuti, nelle prossime ore, confido come sempre che noi continui a lavorare compatti e si lavori con sintesi fondamentali, e la cosa che per me è importante ribadire per tutti è che per nessuno di noi esiste più uno scenario nel quale si va con altri. Noi siamo fatti per governare questa nazione insieme, penso che lo sappiamo tutti, come lo sa la maggioranza degli italiani. Quindi Conte chiede di rinserrare i ranghi della maggioranza, si sta rinserrando l'opposizione, Barbara? Ma io anche su questo ho delle perplessità, perché nel senso oggi hanno fatto questa conferenza stampa unitaria per presentare le proposte al centrodestra, ma insomma Salvini e Meloni non mi sembrano proprio sulla stessa linea, e poi c'è sempre il fatto che la Meloni continua a crescere e Salvini invece no, quindi comunque questo duello al di là di tutto è destinato a proseguire, perché quando due partiti si avvicinano è difficile che non diventino avversari, sono alleati ma sono anche avversari. Salvini e Meloni dici? Eh beh, certo, e quindi questo fa la differenza. È chiaro che la Meloni, non appena Salvini ha fatto intendere che, tra l'altro, Salvini un po' non si capisce perché ha fatto intendere che era disponibile a un governo ponte, sostenendo che tanto le elezioni non ci sarebbero state, però l'ha fatto senza parlarne con la Meloni, e quindi la Meloni a sua volta ha ribattuto che si è detta stupita e, come dire, ha fatto capire che lei da questo punto di vista era proprio contraria. Quindi questo atteggiamento, tra l'altro, è proprio quello che ha fatto guadagnare in questo anno, cioè da quando la Lega è andata al governo con i 5 Stelle, è cominciato piano piano, con l'andare avanti del tempo, una crescita di Fratelli d'Italia, che paradossalmente è aumentata quando la Lega ha deciso di mollarli i 5 Stelle. Lì proprio si è visto che Fratelli d'Italia è decollata e la Lega è scesa, e questo proprio perché io credo ha pagato un atteggiamento coerente da parte di Fratelli d'Italia, della Meloni. Cioè, la Meloni ripete sempre la stessa cosa dalle elezioni in poi, non ha mai cambiato idea: noi dobbiamo andare da soli, noi dobbiamo andare solo come centrodestra, noi chiediamo il voto, ci piaccia o non ci piaccia, lei dice sempre la stessa cosa. Salvini no, io capisco anche Salvini, perché Salvini è chiaramente il leader del principale partito italiano e quindi secondo me ha anche una responsabilità diversa. Barbara, a proposito invece di responsabilità, di dare dei segnali chiari, questa cosa delle misure restrittive, che prima appunto il DPCM del 3 dicembre molto rigorose per le feste natalizie, poi sotto, diciamo, in seguito alla pressione delle opposizioni ma anche di parte di esponenti della maggioranza, si pensava a un allentamento, a una possibilità di deroghe durante i giorni cruciali delle feste natalizie. Adesso invece CTS è ancora riunito, vedo, per decidere misure invece più pesanti. C'è per esempio San Marino, lo dicevo al professor Pregliasco, il governo di San Marino, che dice: stiamo proponendo una cosa, chi non vuole il vaccino pagherà le cure, no? Un'ascoltatrice diceva: ma chi è allergico allora dovrà essere costretto? No, questo già si è detto, che chi dimostra che ha delle allergie, che è impossibilitato per motivi di salute a fare il vaccino, non è che lo acchiappano, lo legano, lo incatenano e fanno il vaccino. Barbara, sentendo tutte queste cose, che ti viene in mente molto sinteticamente, molto laconicamente? Allora, la prima cosa sul vaccino: quando ero piccola mi hanno fatto il vaccino per il vaiolo, nessuno ha chiesto ai miei genitori se ero favorevole o no, si faceva, punto. Seconda cosa, per quanto riguarda le misure, è evidente che siamo in una situazione confusa, come ricordavi prima, in tutti i paesi del mondo. Diciamo che in Italia, come al solito, dopo che il governo aveva preso una decisione, immediatamente sono venute tutta una serie di richieste di allentamenti. La Germania, nel momento in cui la Germania, che sta meglio di noi, non solo perché ha meno contagi e meno morti, ma perché ha un sistema sanitario, una struttura, un'infrastruttura sanitaria, certo, molto, molto, con numeri molto più elevati dei nostri in terapia intensiva, come ricoveri, ma soprattutto anche come personale medico e paramedico, nonostante tutto questo, la Germania decide il lockdown per le feste natalizie fino, mi sembra, al 10 gennaio. Fino al 10 gennaio. Quindi è chiaro che noi, che siamo quelli messi peggio in questo momento in Europa, è un po' ridicolo che siamo a discutere se facciamo il cenone di Natale piuttosto che il veglione allora di Capodanno. Allora mi viene in mente questo: non ce la faccio più, non ce la faccio più. Basta, ho deciso che questo è il tormentone, su questo ti saluto. Comunque, cara Barbara Fiammeri. Tutti i sondaggi dicono una cosa, io non viene abbastanza, secondo me, sottolineato. Cioè, in tutti i sondaggi che sono stati fatti fino adesso, una gran parte degli italiani ritiene che le misure prese dal governo siano sufficientemente restrittive. Pesanti, cioè vogliono maggiori restrizioni. Non mi sembra che il messaggio degli italiani sia molto più responsabile. E poi, su questo, dopodiché, che ci siano le orde barbariche che vanno nei centri commerciali, lì serve decidere il lockdown. Grazie Barbara Fiammeri. Ciao cara Barbara. Barbara non ci vuole più lasciare, stiamo così bene, tanto che un ascoltatore scrive: con Giordano e con Fiammeri non si ronfa, non si dorme, ascoltando i fatti veri, imparando anche le norme. Meglio di così, se può. Abbiamo anche gli ascoltatori poeti. Però ci colleghiamo adesso con New York, il nostro Marco Valsania. Caro Marco. Buonasera. Allora, facevamo i paragoni con quello che succede in Italia, in Europa, le misure restrittive. Adesso intanto è partita, no, da oggi la campagna vaccinale di massa negli Stati Uniti, vero? Sì, è partita oggi, dopo appunto lunga attesa e tra grandi, diciamo così, aspettative e ansie, in un mix appunto di grandi aspettative e di grandi ansie, la campagna, quella che viene descritta da tutti e correttamente come la più grande campagna di massa di vaccinazione mai avvenuta nella storia americana, appunto, oltre 300 milioni di abitanti degli Stati Uniti, 350 milioni, e sparsi su un territorio enorme. Quindi con diciamo sfide logistiche e di assistenza, diciamo, di consegna, diciamo, del vaccino e di inoculazione alla cittadinanza, sfide enormi. Yeah. Sono cominciate tra New York, l'Ohio, l'Iowa, le prime dosi di vaccino sono arrivate, sono state le prime persone, diciamo, a rischio, tra appunto lavoratori della sanità in prima linea e persone delle case di cure molto anziane a rischio, hanno cominciato a ricevere il vaccino. Senti Marco, invece vedevo che il sindaco di New York, De Blasio, ha detto che New York si deve preparare probabilmente a un nuovo lockdown, ha parlato di shutdown, ormai avevamo usato tanta disinvoltura, sì, fino al lockdown, ma lui parla di shutdown, comunque insomma è sempre quello il significato, sì, no? Sì, il senso è quello, diciamo, speravano e continuano forse a sperare di poterlo evitare, ma in realtà appunto l'avvertimento dato oggi da De Blasio e nei giorni scorsi dato dal governatore di New York, Andrew Cuomo, che comunque sarebbe quello che deve dare l'ordine per un vero e proprio, diciamo, shutdown anche della città, ecco l'allarme, diciamo, il senso è quello che nell'arco dei prossimi giorni, settimane, insomma prima di Natale, se le cose continuano a procedere come stanno procedendo in termini di infezioni, ricoveri ed eccessi, a questo punto New York deve prepararsi a un nuovo completo shutdown, per questo hanno usato il termine invece anche di lockdown, perché ha un vero e proprio chiusura totale, come quella avvenuta, diciamo, a primavera, e che appunto hanno finora cercato di evitare. Il virus, la pandemia negli Stati Uniti sta continuando ad avanzare a passi da gigante, nonostante appunto i piccoli passi del vaccino, ma questi mesi, tra dicembre, gennaio, febbraio, tutti gli epidemiologi americani, anche le autorità locali e anche nazionali, al di là, diciamo, di Trump, continuano a lanciare l'allarme che occorre essere estremamente prudenti e estremamente vigilanti e mettere in pratica tutte le misure di precauzione, mascherine, social distance, eccetera, proprio perché il virus galoppa. Il traguardo, ecco, il senso di questo dramma è raccolto, di questo dilemma è raccolto in due numeri, appunto, da una parte due eventi oggi, da una parte i primi vaccini, dall'altro il traguardo delle 300.000 vittime, già, a questo punto negli Stati Uniti per il coronavirus. Grazie Marco Valsani, ha veramente numeri terribili, terribili, soltanto per un'unica malattia, per un virus. Grazie Marco da New York. Ciao caro Marco, un abbraccio. Grazie a voi. Ora invece, per chiudere, con il nostro Dario Ricci parliamo di calcio. A parte il sorteggio in Champions per le squadre italiane, piuttosto impegnativo, Dario. Sì. Buonasera Roberta. Ciao, Dario. Sicuramente impegnativissimo, se mi è concesso il termine, per la Lazio, che incrocia addirittura il Bayern Monaco, campione in carica. Veramente molto difficile anche per l'Atalanta, che sfiderà quel Real Madrid che ha eliminato l'Inter e che l'ha vinta 13 volte la Coppa Campioni Champions League, quindi insomma diciamo che è la squadra che sa come si fa. Anche per la Juventus ho visto commenti sin troppo entusiastici, secondo me, perché il Porto è squadra ben organizzata e che tra l'altro assomiglia molto a quel Lione che appena nel luglio scorso infranse i sogni europei della vecchia signora targata Sarri, quindi insomma tre squadre da prendere con le molle. È andata un po' meglio, decisamente meglio invece in Europa League, mi sembrano avversari tutti più fattibili. Sempre Dario, invece torniamo alla campagna di Radio 24 relativa a Paolo Rossi, intitolargli un trofeo, no? Beh sì, direi che abbiamo catalizzato quello che era un'atmosfera che sull'onda dell'emozione sarà concretizzata in questi giorni, no? In cui abbiamo salutato Pablito, c'era stato un accenno anche da parte di Sky Sport nelle ore immediatamente precedenti con la proposta di intitolare a Paolo Rossi appunto il trofeo che da quest'anno in poi premierà il capocannoniere della Serie A. Poi, caso Google, insomma, un tweet che ho lanciato nella rete venerdì mattina ha raccolto un certo interesse. Insomma, però non è importante tanto la primogenitura quanto l'obiettivo di questa piccola semplice campagna, che si arrivi ad intitolare a Paolo Rossi, tra le tante cose, tra le quali l'una non esclude l'altra, che si faranno per ricordarlo, anche questo trofeo, perché ricordiamo che Pablito è stato l'unico capocannoniere della Serie B, della Serie A, della Coppa Campioni, del campionato del mondo, insignito però anche del pallone d'oro, l'unico italiano che ha avuto tutti questi riconoscimenti. Insomma, un grande Paolo Rossi, quindi speriamo insomma che vada in porto, ma ci aggiorneremo anche nei giorni prossimi, Dario, no? Dal punto di vista tecnico ci sono tutte le ragioni. Grazie Dario Ricci, e con grazie questo ciao Dario, ci risentiamo brevemente e torno come ratta come la folgore, come sempre alle 22.